Eccoci qua dunque dall'arresto dei Marò che oggi domina le prime pagine dei quotidiani in edicola. Arrestati due Marò, tensione India-Italia. Così la Stampa questa mattina. Roma, atto unilaterale e Deli dice li processiamo. Rischiano la pena capitale secondo la Stampa. L'immagine che domina appunto il primo piano della Stampa di Torino oggi è quella dei due fucili del battaglione San Marco in divisa, il gagliardetto del nostro tricolore, e circondati dalle forze di polizia indiane. Naturalmente questa è una dei temi forti di questa giornata, dell'attualità, che continueremo evidentemente a raccontare nel suo sviluppo durante tutta la nostra giornata. Poi c'è il tema invece della candidatura di Sarkozy. Direi che così abbiamo affrontato anche subito due dei principali temi della politica internazionale. Sarkozy a Marsiglia dice: la Francia sono io, quindi siamo in vena di grandi citazioni. Il presidente riapre la campagna elettorale con un grande comizio, punta su Carlà e su una svolta a destra. Per il Corriere il caso indiano è i tre misteri del caso indiano: l'orario dell'incidente, la posizione della nave e l'ipotesi di un'altra imbarcazione coinvolta. Stessa fotografia, ma anche un commento che dice: regole in mare e ritorno al Settecento. Infatti è ormai da qualche tempo, ormai da almeno due anni, che diciamo sulla lunga scia del tema della pirateria si torna a parlare di leggi del mare. L'abbiamo fatto recentemente anche per il caso appunto drammatico della Costa Concordia e di come certe regole e meccanismi poi di fatto implichino delle conseguenze nei comportamenti. Bene, questo cercheremo di approfondire più tardi. Per il Corriere però è anche un richiamo sulla serata conclusiva di Sanremo di sabato sera. Ha vinto l'ironia di Geppi, l'appello per Rossella invece, Rossella Urru, la cooperante rapita in Algeria. A Sanremo ricordata la volontaria ostaggio in Algeria. Taglio delle tasse, Monti accelera. Questa invece è l'apertura scelta questa mattina da Repubblica. Pronto un decreto, intesa sul lavoro, e domani pre-consiglio dei ministri. 5,5 miliardi tolti agli evasori serviranno ad abbassare l'aliquota IRPEF ai redditi più bassi. Quindi l'azione del governo a marce forzate verso il varo definitivo venerdì prossimo della riforma fiscale. Domani ministri al lavoro per un preconsiglio, è pronto un decreto per abbassare l'aliquota IRPEF dei redditi più bassi, sfruttando la metà degli 11 miliardi che si stima arrivino dalla lotta all'evasione fiscale. Ci sono parecchi articoli sull'ultimo passaggio di questa ormai che riconosciamo facilmente come una campagna iniziata a Cortina nel periodo di Natale. Era stato ampiamente annunciato in realtà il passaggio di Courmayeur fin dalle ore successive dei controlli della finanza a Cortina. Bene, adesso c'è stato. Sul fronte lavoro la CGIL frena sull'intesa con governo e industriali. Impossibile, dice la CGIL, chiudere entro marzo, e il PD si divide sull'articolo 18 dopo che Veltroni ha detto non è un tabù. Eccoci qua, il Sole 24 Ore questa mattina, il Sole del lunedì. I tribunali tagliano 400.000 cause tra un mese, il via libera alla seconda fase della mediazione civile. Viene introdotta la procedura obbligatoria estesa a controversie su RC auto e condominio. Questo che cosa significa? Significa che i tribunali perderanno circa 400.000 cause. Tante sono infatti le controversie che dovranno per forza di cose passare prima per gli uffici dei conciliatori, che tra un mese si troveranno a gestire anche le liti in materia appunto di condominio e RC auto. Novità su cui i mediatori puntano molto, perché dovrebbero portare 320.000 nuovi fascicoli. Insomma, c'è del lavoro in arrivo, in grado di dare ossigeno appunto a un mercato finora modesto. A metà marzo, dopo un anno di conciliazione obbligatoria, l'esercito dei 40.000 paceri si troverà infatti ad aver avuto a che fare con 80.000 procedimenti, di cui però solo una parte ha cercato la strada degli accordi. E poi a centropagina tra le, diciamo, correzioni o comunque le precisazioni rispetto alle iniziative assunte nelle ultime settimane dal governo riguarda i contanti per i turisti. Si è parlato a lungo di in che modo il limite dei 1.000 euro potesse complicare appunto la vita agli stranieri e dunque incidere sugli acquisti. Bene, contanti senza limiti per turisti, in settimana le misure su semplificazione antievasioni. Per gli acquisti degli stranieri sarà obbligatoria la fotocopia del passaporto. Dunque lo stop al contante farà una deroga per i turisti stranieri. Il decreto sulle semplificazioni fiscale dovrebbe consentire il pagamento in banconote dai 1.000 euro in su ai clienti che arrivano dall'estero. Italia-India ai ferri corti. Questa è la scelta del secolo XIX, che parla di altissima tensione e Monti segue la crisi. Ma nel taglio basso del quotidiano di Genova, ancora l'eco e l'onda lunga di Sanremo, caro Adriano, i fischi erano veri. Chiaramente il titolo si riferisce all'affermazione appunto di Morandi, poi sostenuta da altri, secondo il quale i fischi sarebbero stati pilotati. Invece per Paolo Crecchi nessun complotto, i fischi appunto erano veri e partiti quindi spontaneamente dal pubblico. Per l'Unità, ecco, il tema dell'articolo 18 è duello nel PD. Veltroni dice appunto, l'ha detto nell'intervista, non sia un tabù. Fassina dice: caro Walter, ti sbagli. Camusso è una norma di civiltà. E l'Unità in prima pagina affronta il tema e anticipa un'intervista a Giuseppe Fioroni. Eccoci qua, questi per i primi lettori dei quotidiani. Naturalmente ripartiamo da qui tra qualche momento. Adesso però restituisco la linea a Peter Bescapeno e ci risentiamo appunto tra qualche minuto. 24 mattino. 7:36 minuti, ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque ripartiamo da Sanremo. Morandi, addio Sanremo, con veleno, pilotati fischi contro Celentano, il virgolettato, ripreso appunto dalle dichiarazioni di Gianni Morandi questa mattina in prima pagina sul Messaggero. Ne parliamo abbastanza brevemente, però per segnalare, come dire, una possibilità quantomeno che viene evocata da Marco Molendini appunto in prima sul Messaggero. Dice: dopo Celentano il diluvio sarà l'effetto Adriano, sarà che la Rai si prepara a vivere una nuova stagione, tagli e sobrietà. Una cosa è certa: il prossimo festival sarà molto diverso. Un Sanremo autarchico che rinuncia ai super compensi, vedi il molleggiato che gestisce in proprio l'organizzazione, con la nuova direzione intrattenimento affidata a Giancarlo Leone, e che ha intenzione di rivolgersi alle risorse artistiche interne. Staremo a vedere. Sulla Stampa, invece, a proposito naturalmente del molleggiato e in generale, insomma, dell'uso di Sanremo per contenuti, per propagare contenuti extra canori, Michele Brambilla dice: dove sbaglia Adriano? Sembra quasi il titolo di un'opera shakespeariana, ma naturalmente è Celentano, è il molleggiato, e Brambilla dice: Celentano avrebbe dovuto appassionare, commuovere o almeno incuriosire, invece ha diviso, urtato, irritato. Non è scaturito dalle sue parole un dibattito sul mistero della vita e della morte, sul dilemma tra speranza e disperazione, ma molto più miseramente un polpettone sugli equilibri interni della Rai. Perché? Perché Celentano ha dimostrato di essere legato a uno schema vecchio, quello secondo cui per proporre bisogna opporre, per parlare di una cosa buona bisogna mostrarne una cattiva che tende a soverchiare, a soffocare. La sua è una retorica della denuncia, dell'indignazione, dei buoni contro i cattivi, del potere che è sempre marcio. E Michele Brambilla fa un esempio appunto nel suo fondo, lo ricordo, lo trovate sulla Stampa. Dice: posso fare un esempio concreto, un esempio appunto di un modo diverso di affrontare, quindi nella sua definizione, in un modo non vecchio, e cita Benigni. Quando Benigni ha portato in TV anche all'interno di spettacoli leggeri la Divina Commedia, e quindi gli stessi temi del paradiso, dell'eternità, ha infiammato, emozionato, coinvolto anche persone che ostentano agnosticismo se non ateismo. La differenza è che Benigni ha portato in televisione la bellezza con la B maiuscola, Celentano la solita logora logica della rissa e della polemica. Questo è Brambilla, naturalmente ci sono ampi spazi di dibattiti all'interno dei quotidiani oggi in edicola, ma noi lasciamo qui invece Sanremo e ritorniamo su quello che appare il fatto principale della cronaca. Fermati due militari italiani, crisi diplomatica con l'India, il titolo scelto dal quotidiano romano, ma c'è un elemento su cui si sofferma e che cattura l'attenzione. Si parla infatti del fattore Sonia Gandhi. Credo più o meno tutti abbiamo l'eco, la notizia proprio nella nostra storia di una first lady indiana di origine italiana, Sonia Gandhi, una storia di vita e di politica nel grande subcontinente indiano, una storia drammatica che, giusto per citare un caso, passa anche per l'omicidio del marito. Ecco, ma quale sarebbe il fattore Sonia Gandhi? Un fattore che Francesca Marino dice: il caso dell'Enrica Lexi tiene banco nei notiziari televisivi, sui giornali indiani, su una copertura che risulta, visto l'episodio, piuttosto sorprendente. Non perché l'uccisione di due esseri umani sia un episodio da nulla, ma perché in India l'uccisione di due pescatori non ha mai destato tanto scalpore a livello internazionale. E nella pagina interno prosegue: l'insolita inflessibilità mostrata dal governo di Nuova Delhi nel gestire l'uccisione dei pescatori al largo delle coste del Kerala e l'ampia risonanza mediatica data alla faccenda andrebbero dunque considerati in un'ottica che tiene conto del ruolo politico di Sonia Gandhi. Sonia Gandhi che nel 2004, pur avendo vinto l'elezione, ha rinunciato a diventare premier, facendo eleggere al suo posto Manmohan Singh, di religione Sikh ma indiano al 100%. Ecco, l'Enrica Lexi, prosegue l'articolo di Francesca Marino, rischia di essere una pistola puntata alla tempia di Sonia Gandhi e del Congress Party, il partito storico, appunto, come dire, una volta avremmo potuto dire la democrazia cristiana indiana. Il coinvolgimento quasi immediato del governo in centrale, l'incriminazione dei due militari a bordo della nave, l'incidente diplomatico in corso, sono state da parte di Nuova Delhi passi quasi obbligati. I partiti integralisti, contro il quale appunto si pone il partito del Congresso, sarebbero stati difatti pronti a saltare alla gola di Sonia Gandhi se la faccenda fosse stata risolta per via diplomatica, e se sarà risolta per via diplomatica con un semplice compenso in denaro alla famiglia. Basta leggere alcuni commenti ai blog dei maggiori quotidiani indiani per rendersi conto dell'aria che tira. Sono in molti a dichiararsi convinti che nessuno sarà punito, che gli italiani saranno rinchiusi in una prigione a 5 stelle e rimpatriati alla chetichella a spese del governo indiano, e che Madame Sonia, come viene ironicamente chiamata, si prenderà cura dei suoi compatrioti. Insomma, forme di nazionalismo, di discriminazione in chiave di discriminazione nei confronti di una rappresentante occidentale che da anni di fatto combatte anche una battaglia politica per essere pienamente percepita come indiana, non solo come ovviamente la sua scelta di vita l'ha portata ad essere. Sono in tanti oggi a ritirare fuori la sempre verde ombra del vecchio scandalo Beaufort, una faccenda di corruzione, il più grosso scheletro nell'armadio del leader del Congress. Ecco allora perché New Delhi non fa sconti a Roma per non danneggiare Sonia Gandhi. Questo è il titolo dell'articolo che vi ho appena letto, e che secondo appunto questa visione della vicenda rappresenterebbe di fatto un elemento di complessità per una situazione sicuramente drammatica, ma che per molti commentatori sembra arricchirsi di elementi che vanno a fondo nella storia, nell'attualità politica del grande paese. L'India dunque, e ora voltiamo pagina letteralmente, proseguiamo nella lettura. Il giornale è sciopero CISL contro la RAI. La CISL pensa al boicottaggio del canone perché Fazio invita solo la CGIL, il conduttore più settario, così dice la CISL. Non c'è pace per Viale Mazzini. Dunque, tutto questo è l'apertura del giornale di oggi, che a centropagina tanto per rimanere in zona Rai, mostra una grande fotografia di Adriano Celentano e Claudia Mori, non accetta le contestazioni, Adriano il santone che non sa perdere e accusa con un richiamo a un'intervista, a un articolo di Toni Damascelli, a casa Celentano comanda la Mori, insomma sembra un po' qui l'insinuazione che viene spesso affiancata quando si deve accusare qualcuno in casa, insomma, comanda la moglie. E chi comanda invece in Vaticano, si interroga il Foglio, quindi tutt'altro tema e approccio. Il Foglio del lunedì ha un tema diverso, aspettando che il Papa si dimetta, veline e lavandaie in Vaticano, il feroce gioco a tana liberi tutti della curia che scatena scandali e calunnie. Ratzinger, dunque il Papa, troppo in alto, troppo stanco. Il Vaticano, una boccata d'aria fresca dopo settimana di veleni. L'altro ieri, sabato 18 febbraio, Benedetto XVI ha presieduto il concistoro nel quale sono stati creati 22 nuovi cardinali. Il collegio cardinalizio arriva così a 213 membri, 125 dei quali hanno meno di 80 anni. Alla vigilia del concistoro il Papa ha riunito il collegio cardinalizio, compresi i nuovi arrivati, per una giornata di preghiera e riflessione. La star dell'incontro è stato uno dei nuovi cardinali. Chiede ai confratelli di perdonarlo per il suo italiano primordiale, racconta di quando era seminarista e ascoltò in San Pietro i consigli del cardinale John Wright. Fate a me e alla Chiesa un favore, quando girate per Roma sorridete, chiarisce. La nuova evangelizzazione si compie con il sorriso, non con il volto accigliato. La Chiesa è fondamentalmente un sì e non un no. Il protagonista della vigilia è lui, l'arcivescovo di New York Timothy Dolan, capace di delineare la strategia di evangelizzazione strappando sorrisi. Ma nel lungo approfondimento del Foglio c'è anche il racconto di quello che il quotidiano diretto da Giuliano Ferrara definisce nel titolo un covo di vipere, una chiesa dove, come recita anche, dove scrive Missore nelle pagine interne, dove da sempre convivono pesci buoni e cattivi, oggi deve aprirsi allo scandalo delle risorse umane. Viabilità, torniamo subito dopo. Sono le 7:47 minuti, eccoci qua ancora per qualche momento insieme. Qualche segnalazione ancora. Parlavamo dunque dal Foglio della Chiesa del Vaticano. Dal Giorno vi segnalo un'intervista al Ministro della Cooperazione che parte da questo punto, ma va altrove. La Chiesa paga i lici, ma il no profit va tutelato, dice il Ministro dell'Integrazione Andrea Riccardi, persona storico, persona anche di grande vicinanza e conoscenze vaticane, parte da questo punto, ma atterra di fatto sui 100 giorni del governo. Più di una volta è stato indicato come uno dei possibili in qualche modo elementi di aggregazione per il nuovo centro. Lui, nell'intervista rilasciata appunto al Giorno questa mattina, dice: in politica non serve un nuovo centro. E invece, per quanto riguarda più in generale quelle che sono i 100 giorni e la politica, vi segnalo tra l'altro un commento che viene da Repubblica, a firma di Ilvio Diamanti, che ipotizza, con un punto di domanda naturalmente, una terza Repubblica contro i partiti, e scrive: non è facile prevedere che ne sarà dei partiti e del sistema partitico italiano dopo il governo Monti, ma una sensazione forte: nulla resterà come prima. L'esperienza del governo tecnico infatti sta mettendo a dura prova la tenuta dei principali partiti, ma anche e soprattutto delle alleanze e delle coalizioni precedenti. E prosegue Diamanti nelle pagine interne, pagina 22. Oggi appare in crisi la legittimazione stessa dei partiti in quanto tali. La fiducia nei loro confronti è infatti scesa a livelli mai toccati in passato. Si parla del 4% secondo Demos nel gennaio 2012. D'altronde non può essere prive di conseguenza il fatto che la gestione della crisi sia stata affidata a un governo di tecnici. Diamanti poi argomenta, citando appunto le vicende interne da una parte della PDL e del PD, ma per arrivare a quelle che definisce una serie di conseguenze, che vi cito almeno un paio. Se i partiti della Seconda Repubblica sono personalizzati, la leadership personale dei partiti si sta rapidamente indebolendo. L'unico leader che mantenga un alto livello di consensi tra gli elettori, infatti, è Monti, intorno al 60%. Tutti i leader di partito da metà gennaio ad oggi hanno infatti perso consensi e si posizionano molto in basso. Quindi dice, scrive Diamanti, non è soltanto un cambiamento di numeri, ma un cambiamento di atteggiamento globale. E i partiti maggiori, aggiunge, hanno perduto consensi. Il PDL in particolare è ridotto al 22%, mentre il PD da gennaio, quando aveva superato il 29%, sta declinando, seppure lentamente. Insomma, soprattutto se il governo Monti ottenesse i risultati sperati dal punto di vista economico e istituzionale, se svelenisse davvero il clima sociale ed opinione, allora tra un anno diverrebbe un soggetto politico forte e potrebbe coltivare l'idea di proseguire l'esperienza in proprio. Questo secondo Ilvo Diamanti questa mattina su Repubblica. Io invece vorrei concludere, prendere gli ultimi 3 minuti per di fatto anticipare anche il tema che andremo ad affrontare più tardi. Oggi, come avete sentito anche nei nostri giornali radio, è il giorno dell'Eurogruppo a Bruxelles. Perché è importante? Perché ci si aspetta una decisione di fatto conclusiva, almeno diciamo un passaggio chiaro sull'intervento di sostegno dell'Unione Europea alla Grecia, i 130 miliardi della seconda tranche di cui abbiamo parlato tante volte. Ancora ieri la Grecia è tornata in piazza e naturalmente anche in questo caso, tra sentimenti di preoccupazione, tra la grave crisi economica e dunque la sofferenza anche di un popolo rispetto a quello che vede dalla prospettiva greca di un'Europa, come dire, non particolarmente sensibilizzata. Oggi Daniele Mastrogiacomo su Repubblica racconta comunque di come il 75% dei greci voglia rimanere fermamente in Europa, per ragione di interesse naturalmente, perché l'euro in fondo è ben più rassicurante della dracma, ma anche per una questione culturale. Intanto ad Atene, in piazza contro l'austerity, ieri poche migliaia di persone, erano 3.000 per la polizia, 5.000 per altre fonti, insomma manifestazioni di tenore completamente diverse. Hanno raccolto ieri appunto l'invito dei due maggiori sindacati ellenici a radunarsi nella centralissima piazza Sintagma ad Atena di fronte al Parlamento per protestare contro licenziamenti degli statali, tagli alle pensioni e le altre misure di austerity adottate dal governo di coalizione per ottenere il secondo prestito dai creditori internazionali ed evitare la bancarotta. Questo è dunque il clima, in qualche modo, con cui si va ad aprire una settimana appunto molto delicata sul fronte ellenico e non solamente. Io vi ricordo, a partire dalle 8:20 avremo un ospite, un amico, Alessandro Marzomagno, che è scrittore, giornalista, che ci racconterà un'altra faccia della tradizione ai piedi del Partenone, un racconto di vita e di storia che, come non vi sorprenderà, è vecchio di secoli e ricco di storie davvero affascinanti. Bene, per adesso noi abbiamo concluso. Sono le 7:53 minuti 30 secondi in questo istante, con Peter Bescapè che si prepara a passare la linea a GR24. Da Gigi Donelli per ora un saluto, ci sentiamo tra circa una mezz'ora. Dopo.